detto domandate di no, la causa vi fosse, risparmiatemi le vostre scuse, sarà meglio. Sarà il nuovo millennio e sarà il 13. Giorni pesanti, additivo per asfalti, rocce, sabbia e fuoco che li squagli. Fibre di vetro si intrecciano a rame, tessono le trame in una maglia stretta e fine sottile. Lo strato che sancisce l'inizio dell'autunno al quarto e poi l'inverno è mezzo, dividendo l'acqua dal ghiaccio e il sole da maggio. Busto, gente, parti uguali, frazioni stabili. Mi sento bene così, voglio starci lenti, così spiego i tuoi movimenti tramite. Farò da palla che ho bisogno di occhi svelti, ma non mi sporcherò le mani per chi ne sa che l'inchiostro è poco e sta svanendo. Granelli di liquidi metallizzati sopra superfici lucide, luccicando se arrivata, e quando sei arrivata era già arrivato il sole e quindi sei sparita, impressionata come una pellicola fra pause di in conclusione oggetti tridimensionali. Sarà un'angoscia dimenticarsene, prendi la stretta, la dignità il diamante che non si spezza, non si taglierà così se le lame sono prive di forze naturali, sono pieno di colpi elettrizzati, mi frantumo scheggi di lati, sto assorbendo il campo. È invisibile ed odore amaro e striscia vellutato su chi ha combattuto e può tenere in alto il volto pure se scolpito da fatiche e sfide che nemmeno scalfiranno. Prepara la tua pelle, nuovo schermo trasparente, vetro liquido, si illumina spesso di notte. Il metodo è essiccare al sole e diventare sale, brucerà, gli occhi scolpieranno fino al nuovo sonno. Pioggia di frazioni cristalline, corro su linee, luci come la tristezza di chi pensa che scompare come sofferenza. Fragile movibile, essere si spreca e non si asciuga, e chi si affonda macchia le coscienze poi ritorna a galla e parla male. Riempie la bocca di voglia quando salta fuori inondazione, che freddo, sto scivolando in un turbine che si riassume in cinque posizioni.